io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Anche l'ultimo ha trovato l'ingaggio, che avete sentito nella sigla, cioè José Mourinho, che ha detto nel weekend: firmerò per il Chelsea perché là mi amano e soprattutto lui ama i 10 verdoni, 10 milioni che gli daranno per 4 anni, dunque notizie fondate. Però naturalmente, amici miei, 800 24 00 24, non siamo qui per parlare di Mourinho o anche di Mourinho, siamo qui per parlare del classico matrimonio all'italiana, dopo le liti, le parole grosse, il mio allenatore non capisce un cazzo, come avete sentito nei mesi scorsi, dopo le arrabbiature perché il Sharawi stava in panchina, dopo tutte queste cose, i piccoli flirt, piccoli o grandi flirt con olandesi o romane, allora si decide di andare avanti. Soprattutto quando l'avvocato è uno di quelli bravi, Berlusconi chiarisce chi porta i pantaloni in famiglia con un comunicato piuttosto esplicito. Ieri sera si è discusso anche del gioco e anche delle norme di rispetto della società verso l'allenatore e dell'allenatore verso la società. Quindi il pane a casa lo porto io e faccio come dico io e tu fai come dico io, caro Allegri. Vince l'avvocato Galliani, anche perché, come in tutte queste situazioni, da classico matrimonio all'italiana, quando si comincia a parlare di alimenti, Allegri 2,5 netti l'anno, quell'esoso dell'olandese ne aveva chiesti 3,5 pur non essendo ancora un allenatore, ebbene finisce così, si va ai tempi supplementari tra Allegri e il Milan, sembra davvero una telenovela. Berlusconi, credo unico presidente al mondo confermato, l'allenatore Allegri quando avevamo 7 punti dopo 8 giornate, è il nostro allenatore, ha un contratto per un altro anno, queste sono le certezze, poi le indiscrezioni lasciano il tempo che trovo. Siccome qui si parla di Allegri, di un giorno eccolo qui, mi ha detto che viene a processo lunedì, quindi aspettate per lunedì. Abbiamo bevuto un bel caffè, con questo chiudo. Un'ora e mezza per un caffè lungo, eh? Yeah. Abbiamo gustato per bene. È una vexata questio, se tutti si metteranno nella direzione di mettersi una mano sulla coscienza e di scegliere il meglio per il nostro Milan. La cena com'è andata? Buono, pranzino buono. Non è stata l'ultima, insomma. No, non sia blasfemo, l'ultima cena, no. L'ultima cena è un'altra cosa. Sì, sembra beautiful, scegliete voi la telenovela che è finita così. Allegri ha sottoscritto la riconciliazione ma senza prolungamento del contratto, come avrete letto, contratto che scade nel 2014, insomma vedremo come andrà a finire. Con Zaccheroni più o meno nelle stesse condizioni, non finì benissimo. Tabarez e Terim, tanto per fare un po' di storia, furono delle avventure esotiche. Allegri invece sottoscrive la riconciliazione apparentemente, appunto, senza condizioni e senza parole. Oggi ha parlato del menù della cena, abbiamo mangiato davvero bene, ha detto Allegri non aggiungendo altro. L'altro giorno invece aveva detto il caffè era buono, ce lo siamo gustati a lungo. quando invece Berlusconi decise di non andare a prendere quel caffè. Certo, Max è uno furbo, somiglia tanto a quei ragazzini che dicono sempre di sì al papà e alla mamma, poi tanto fanno quello che para loro. Ha cominciato con il cocco del presidente Ronaldinho ed è andato avanti per la sua strada. Dunque questo matrimonio va avanti lasciando, tra l'altro, effetto collaterale in braghe di tela la Roma, che ora è in pieno caos, era convinta di poter inchiostrare Allegri, anche perché gli ascoltatori sottolineano, parlate, vi aspetto, 800 24 00 24, non limitatevi a scrivere messaggi SMS sottolineando come non ne azzecco una, avevo detto che Allegri sarebbe andato via dal Milan, ma sembrava davvero la cosa più probabile. Poi ci si è messo di mezzo il miglior avvocato possibile, cioè Galliani, che stava con Allegri, così come a parole la squadra, così come stando agli striscioni la tifoseria, tutti da questa parte, Berlusconi dall'altra. Alla fine Berlusconi probabilmente ha detto vabbè, andiamo avanti con sto livornese, però si gioca come dico io, la squadra si è discusso di mercato, vedremo quali giocatori prenderà. Una cosa è certa, Berlusconi a fine estate dirà: questo Milan deve vincere tutto senza sconti nemmeno per le grandi d'Europa. 800 24 00 24 il numero verde. Simone Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto per la convocazione. Grazie a lei di aver risposto. Mi raccomando, una cosa seria. Io sono di Bergamo. Seri. Sono bresciano di origine, serie, ma romanista. Eccolo là. E non ho mai. Tantissimi anni visto figuracce come quelle di questo fine settimana. Oddio, sì. È una sola delle ultime. Niente di che, ma io ho firmato una petizione online stamattina intitolata "Cacciamoli via". Ma cacciamo via chi? La dirigenza romanista. Ma pare che Baldini insomma non abbia dato le dimissioni, o stia per darle, o abbia intenzione di darle. Guardi, o stia Baldini pensando di darle. Che lui è il problema, e se lui è il problema se ne va subito, ma lo dice da un anno. Sta di fatto che è lì. Sì, sta di fatto che la Roma non aveva pronto un piano B, perché probabilmente anche loro, vedete, queste cose che sono anche difficilmente prevedibili, per la verità, non sto cercando di giustificarmi, però sono difficilmente prevedibili, non le aveva immaginate neanche la Roma, che era arcisicura di aver in mano l'allenatore per la prossima stagione. Perché? Perché Berlusconi non voleva sentirne ragioni fino a qualche giorno fa, tanto che aveva fatto saltare l'incontro previsto la settimana scorsa. Invece poi è stato convinto, anche io credo per questioni di alimenti, come dicevo prima, perché Allegri al suo contratto fino al 2014 non ha intenzione di rinunciare, questo perché non era così convinto della proposta della Roma. Seedorf, quell'esoso di un olandese che non è nemmeno un allenatore, ne ha chiesti 3,5 perché non guadagna di meno di quanto becca quest'anno giocando, facendo ancora il giocatore in Brasile. Dunque la storia è finita così, adesso alla Roma si parla di Blanc, c'è Rijkaard che ha detto mai sentito nessuno della Roma, si parla di Bielsa, si parla di Rudy Garcia, si parla di un sacco di nomi, fatto sta che in questo momento la Roma l'allenatore non ce l'ha. Tutti convocati. Mentre noi non ci lasciamo mancare nulla, nemmeno su Twitter abbiamo lanciato l'hashtag a proposito della Roma, Mister Roma. Aiutateci a trovare un tecnico ai giallorossi, ma aiutateci anche attraverso questi microfoni. 800 24 00 24, voglio tornare sulla questione Milan. So che Marco Nosotti è a Coverciano, però è solo un distaccamento provvisorio. Ciao Marco, da Sky. Un piacevole distaccamento. Buongiorno, ciao caro, buongiorno a tutti. Ti hanno distaccato per la missione azzurra, però però è come se tu fossi là, no? Il matrimonio all'italiana, dicevo prima. Dopo liti, insulti, cornette alla crema olandese o romana, ci si mette d'accordo quando si parla di alimenti, vabbè, andiamo avanti. Esatto, è proprio così, io credo sia stato proprio questo. Qualcuno dice, hanno commissariato Allegri, Allegri non si fa commissariare, però c'era gratitudine nei confronti di Galliani, che è un abilissimo tessitore, un grande dirigente. C'era la consapevolezza che questa squadra va migliorata un po', e va completato il lavoro che aveva iniziato, mettendoci anche la faccia. C'era il fatto che forse a Roma squadra interessantissima, ma forse un potere societario non avrebbe trovato certe garanzie che forse aveva adesso nel Milan che farà la Champions. Tutte queste cose insieme credo abbiano influito e poi portato a, a questa soluzione. Sta di fatto che il presidente dietro l'angolo, al primo sgarro, e vedrai che cosa ti dirà. Non so che dialetto userà, però preparatevi. Sì, senti Marco, ma non è che scriveranno sul programma delle partite del Milan come facevano con Benitez al Chelsea allenatore ad interim? No, però obiettivamente, se hanno parlato così a lungo, ha riconosciuto che certe cose erano sparate un po' fuori luogo. Seedorf avrà un grande futuro, adesso ha un grandissimo presente e un grandissimo passato. Per il resto questa era la soluzione migliore, però questo allenatore senza un contratto rinnovato, secondo me un pochino più delegittimato. Allegri è un giocatore che fa senza rete tante cose, e qui è forte di sé, dell'affetto e della dedizione del suo gruppo, di quello che pensa la gente fuori, perché ha capito che questo è bravo, ha fatto nozze con i fichi secchi, e allora se la vuol giocare. Però secondo me è un azzardo senza rete, però credo sia la soluzione migliore per il Milan. Fichi secchi costosi, Marco, perché il Milan è una squadra che di ingaggi costa di più di tutta la Serie A, quindi Berlusconi credo abbia voluto chiarire anche questo, e alla fine meno 15 dalla Juventus, che costa di meno, però. Senti Marco, chiudo salutandoti, facendoti due domande difficili, rispondi se puoi o se vuoi. Perché i rapporti tra Galliani e Allegri sono così stretti, e quanto influisce così il feeling che Galliani ha con la curva? E perché Galliani non sopporta Seedorf? Sono comparsi subito striscioni, Seedorf no grazie. Ecco, allora io credo, il feeling con Allegri lo ha scelto lui, si sono trovati, hanno idee simili di calcio, sa che Allegri mastica calcio e lo insegna, Allegri lo ha scelto lui e il presidente quindi vorrebbe inserirsi in questa liaison, perché il presidente ha scelto soltanto faccio per dire, sì, grandissima intuizione, sì. Sacchi e Capello, da allora li ha scelto tutti Galliani, sì. E ci ha preso molte volte. Seedorf a mio avviso ha un rapporto, un feeling tutto particolare, già collaborato con il presidente, e forse questo poteva voler dire mettere qualcun altro un pochino in disparte. Grazie Marco, la nazionale come va? Tutto a posto? Tutto bene, si è fatto male Antonelli, resterà a casa oggi. Poli, Agazzi, Sao, Bonaventura, uno fra Astori, Ranocchio e Bon potranno restare a casa. Vediamo come sta Barzagli. Questa sera si saranno convocati per i 23 per la Confederation Cup, ma ovviamente tutta l'attenzione, la riunione a parte purtroppo, è concentrata su Praga, perché Praga vuol dire vittoria, in caso di vittoria, certezza di qualificazione mondiale. Quello questo conta. È chiaro. Danubio permettendo che sta... Danubio permettendo che purtroppo possiamo scherzare un po' meno, perché sicuro. Ci sono anche delle vittime, e questo sicuro, è un problema. Sicuro. Marco, un abbraccio e grazie. Buon grazie lavoro. A voi, ciao bello. Grazie a Marco Nosotti da Sky, 800 24 00 24. Intanto poi vi faremo sentire, tra le altre cose, Cellino che è ricomparso. Ricomparso come? Era sparito? Non era agli arresti domiciliari? No, non lo è più, è tornato a suonare con la sua rock band. E poi altro tema del giorno, di stretta attualità, e anche qui voglio sentire la vostra, 800 24 00 24, è Moratti. Moratti che, interrogato questa mattina, dice, per la precisione, la cessione delle quote è determinante solo se questa cosa ha vantaggi per l'Inter, se no lasciamo stare. Non credo siano giorni decisivi per queste trattative con l'indonesiano Tohir, si fanno sin troppe chiacchiere, e dice Moratti al 90% non sono vere. Queste le parole del presidente dell'Inter di oggi. Alberto, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare un passo indietro sull'allenatore della Roma. Sì. Perché voi fate, diciamo così, nomi di stranieri. Blank, piuttosto quelli che si sentono, quelli che si sentono sono questi. Ma io volevo dargli un suggerimento, ma Corini, che mi pare abbia rotto di recente con il Chievo. Così. Ma sì, può essere. Lì. Ma può essere un'idea, come un'idea. Ma anche io preferisco gli allenatori italiani, che conoscono anche un po' il calcio italiano. E tutto il coronario, il contorno. Allora, Alberto, posso dire, secondo me l'allenatore in fondo si sceglie sulla fiducia, si sceglie in funzione di un progetto. A me sembra che le linee del progetto Roma siano piuttosto confuse, no? Sono partite con Luis Enrique, con una determinata idea di gioco. Si è arrivati a Zeman, che sappiamo tutti quale allenatore particolare ed estremista, se vogliamo, sia. Poi Zeman non ha funzionato, Andrea Zoli ha fatto discretamente la prima esperienza sulla panchina di Serie A, e adesso a me sembra che a Roma si sia in pieno casino, perché la verità è questa. C'è chi su Twitter suggerisce Totti, ma Totti come? Allenatore giocatore? No, solo allenatore? Ma non credo che Totti sia d'accordo, perché mi sembra che abbia ancora voglia di giocare e magari di non rischiare così tanto. Totti o Serse Cosmi? Ve lo immaginate sotto la Sud? Vabbè, al di là dei siparietti, vi vendiamo così queste due idee che arrivano da Twitter. Antonio Bologna 800240024. Andrea da Pisa, non te la prendere quando fai il toscano, sembri Boldi. Che tu dici, Andrea da Pisa? E tu dici, Antonio Bologna, che scrivi, Andrea da Pisa? Buongiorno a lei. Senta, io sono un tifoso del Napoli. Le posso fare una piccola critica, piccolissima proprio? No, anche grande. No, volevo sapere, lei come fa, a tempo fa ha detto alla radio, come fa lei a dire che il Napoli non vale i punti che ha? Come fa lei a dire che il Milan passava sopra al Napoli, proprio tranquillo, lei sicuro di sé? Cioè, lo sa lei che se noi avessimo avuto maggio dell'anno scorso, io non so se la Juventus avrebbe vinto lo scudetto, solo che noi, secondo me, i punti che ha fatto il Napoli se li merita tutti. Io ho detto il contrario, Antonio, io non ho mica detto che il Napoli non meriti i punti che ha, anzi, il Napoli ha strameritato i punti che aveva. Poi sulla storia di maggio, insomma, sono tutte ipotesi. Io dico soltanto che dal punto di vista della qualità e profondità della rosa, se vogliamo guardare, Mazzarri ha spremuto da questo gruppo nel corso di 3 anni più di quanto questo gruppo poteva avere, più di quanto questo gruppo poteva valere. Ma non perché a costo sempre di sottolineare gli stessi, però sinceramente una difesa come era quella del Napoli non era una difesa da quei livelli nel campionato italiano né in Champions League, ed è riuscito Mazzarri a raggiungere quei livelli. Poi è vero che, insomma, statistiche alla mano, riesce a far rendere al 2000% tutti i centravanti che gli capitano a disposizione, da Lucarelli in su o in giù, insomma, con lui segnano tutti un sacco di gol. Poi è andato via una delle tre superstar, Lavezzi, eppure ciò nonostante, che non è stato poi alla fine rimpiazzato da qualcuno in particolare, perché Vargas è stato un fallimento, che però Benitez intelligentemente vuole rivedere, perché ha fatto un discorso, molto intelligente Benitez, cioè quelli che sono di nostra proprietà e che sono stati giudicati da Mazzarri inadeguati, a cominciare da Edu Vargas, che è stato pagato un sacco di soldi, tra l'altro, bene, li voglio vedere tutti, poi decido se davvero non vanno bene per questa squadra. Ebbene, il Napoli è riuscito a fare, secondo me, più di quanto era anche legittimo domandargli. Naturalmente chiedo scusa per l'imprecisione, ma in questo periodo, insomma, sto seguendo con grande apprensione le notizie che arrivano dall'estero, notizie che arrivano dal meteo, perché ci sono disastri ovunque. Ho detto Danubio, che naturalmente non passa per Praga, anche se le condizioni del Danubio sono preoccupanti, e la Moldava che passa da Praga, e anche la Moldava sta creando dei danni, delle inondazioni come non si vedevano da parecchi anni da quelle parti. Allora, Franco dopo la borsa, Franco dopo la borsa, Franco e molti altri. 800240024, numero verde. Tutti convocati. Allora, Franco, buongiorno. E lei? Cosa mi racconta? Allora, io sono un turista, chiamo da Barletta. Volevo chiedere un suo parere su Mazzarri e il pugno duro fuori dal campo. Mi spiego. Finalmente, dopo Zanetti, Cambiasso, Samuel, Baresi, Cordoba, Mazzarri riuscirà a comandare lui? ad avere la forza di decidere chi deve giocare, come dobbiamo giocare, chi comprare, chi mettere in panchina, oppure ogni volta bisogna fare la riunione con gli argentini e chi vede la campagna acquisti, chi la fa. Siamo tornati ai tempi di Zenga, Ferri, Baresi, Bergomi, sì, che decidevano loro tutto. Beh, un po' sì, Franco. Io, insomma, il mio pensiero su questo punto l'ho già espresso. Adesso sento circolare molti nomi a proposito dell'Inter, nomi di senatori, di Mazzarri, da Zuniga, Berami, eccetera, eccetera. Io continuo a pensare che per un allenatore, anche uno con un carattere spigoloso, duro, come dice lei, come quello di Mazzarri, non possa fare a meno per fare un lavoro, insomma, completo di rifondazione, di ricostruzione, eccetera, non possa fare a meno di tagliare un cordone ombelicale con un gruppo altrettanto forte di giocatori come quello degli argentini, che spesso anche nel bene, qualche volta meno, hanno condizionato gli allenatori che lì si sono avvicendati. Poi adesso vediamo anche come finisce, perché non è finita questa vicenda Tahir. Ne abbiamo a lungo parlato la scorsa settimana, oggi ripeto Moratti ha attenuato i toni dicendo la cessione solo, ovviamente Tahir vuole la maggioranza, vuole comprare l'Inter, la vuole comprare per dei soldi che sono tanti e ne parlavamo l'altro giorno con Marco Bellinazzo, sono equi considerato il fatto che c'è anche una discreta voragine da riempire di debiti pregressi. A Moratti molti hanno spiegato, si dice, che questi treni passano una volta sola e che converrebbe saltarci sopra. Lui oggi ha detto: solo se questa cosa porta i vantaggi per l'Inter, non credo siano giorni decisivi, il 90% delle cose che si leggono sono fandonie. Non so se questa sia la verità, però mi sembra un dettaglio tra molte virgolette assolutamente importante per capire quale tipo di campagna acquisti farà l'Inter, quale squadra avrà Mazzarri, quali poteri avrà Mazzarri, eccetera eccetera. Quindi per il resto io posso solo dire che il gruppo degli argentini all'interno dell'Inter ha un peso specifico enorme nei confronti del presidente e dell'opinione pubblica nerazzurra. 800 24 00 24 per intervenire su ciò che volete oggi, anzi ora parleremo anche di, sto ricevendo un sacco di improperi, di messaggi, parleremo anche del Mugello che poteva, nelle speranze almeno mie, dato che faccio il tifoso dichiarato, almeno quello concedetemelo, e concedetemelo anche prendetene atto anche nei momenti come questo in cui tutto sembra girare male, tipo per Valentino Rossi che ieri è uscito di scena dopo pochissimi metri di gara scontrandosi con Bautista. Sentiamo cosa ha detto Valentino dopo questo incidente. Mi fa un po' male soprattutto il culo, la chiappa, e la mano un po', e poi il piede, perché mi ha preso nel piede. Abbiamo guardato adesso bene le immagini e Bautista all'entrata sinistra è tutto interno, secondo me lui aveva paura che qualcuno lo sorpassasse all'esterno, quindi dall'interno ha aperto il gas forte e è venuto a chiudere un po' la traiettoria, il problema è che io ero già davanti. Così Valentino Rossi sull'incidente, ma c'è anche, sentiamo ovviamente par condicio anche la versione di Bautista. Ho una linea come tutti i piloti, quello che è un po' la linea diversa è lui, che per ritornare alla stessa linea alla fine siamo tutti e due che abbiamo incontrato, no? Alla fine direzione di gara voleva sentire la nostra opinione e niente, ha detto che questo è un incidente di gara. E questo è ciò che è successo nei primi giri, ovviamente tutti gli onori alla gara meravigliosa e perfetta che ha fatto Jorge Lorenzo, a Crutchlow che è un cagnaccio e non molla un centimetro, a Marquez che è un pilota, come abbiamo visto anche ieri, di enorme talento, ma per fortuna sua è ancora una spina essendo poco più che un bambino, essendo assolutamente uno sbarbato, e ieri ha fatto un errore da non farsi. Complimenti al vecchio lupo spagnolo Pedrosa che ha raggiunto un insperato secondo posto. tutto questo sugli schermi del Mugello, che si sono in parte spenti dopo l'incidente di Valentino Rossi. Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, nostro amico. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi leggo sugli SMS, oltre ai soliti improperi per il mio tifo per Valentino Rossi, anche un grande pessimismo. La parola più ricorrente è, ammettetelo, this is the end. Senti, lo sento anch'io dire a tanti, anche nell'ambiente, e io credo che dobbiamo ancora sospendere un po' il giudizio, perché ieri è stata per lo più sfortuna, anche se io ho una mia teoria, in parte anche avvalorata da Valentino, che se parti settimo e parti sempre in terza fila ti devi aspettare, no? Anche cose così, bagar simili, quindi questo è un problema tecnico. Fare male le qualifiche, partire tardi e trovarsi nell'ingorgo. Detto questo, ieri è stata molto sfortuna, però sì, è vero, Le Mans non è stata sfortuna, perché è caduto per un errore, perché stava andando probabilmente oltre il limite ed è stato l'unico dei big, no, a cadere sul bagnato, e insomma dopo il Qatar non ha fatto più niente di valentiniano, sì, no? Sì. Non ha più detto niente di valentiniano, e quindi il dubbio c'è in molti. Poi, come saprai, tu sei tifoso, ma sai che c'è anche una fetta di appassionati che sta godendo come una matta per questa crisi di Valentino, sì, sì. Sono quelli che dicono l'avevamo detto che era bollito. Il tifo contro fa parte di noi. È come no, noi italiani soprattutto, ma anche gli spagnoli un po' nelle moto ci stanno. Sì. Ad ogni modo, al di là di questo, io sospenderei il giudizio. Certo che lui dopo Austin ci aveva detto, vado in Europa, le piste amiche vedrete. Le piste amiche sono quarto posto ai Reds, senza mai essere in gara, quindi insomma, così, ordinaria amministrazione, dodicesimo a Le Mans, zero a Mugello. È dura, vediamo Barcellona. Ma cosa non funziona, Alessandro, secondo te? Si è arrugginito davvero lui? È davvero invecchiato Valentino, o gli altri di conseguenza sono cresciuti e diventati più forti? Ieri, vabbè, la gara di Lorenzo non ha ammesso, è stata una gara di prepotenza pura, sì. Cioè non ha ammesso contestazioni sulla sua vittoria. Sì. No, Lorenzo ha detto una frase molto bella, ma non polemica, ma spesso questi ragazzi sembra che facciano polemica, ma sono no onesti. Dice, vabbè, quando ho deciso di attaccare, ciao a tutti. Pedrosa ha dovuto dire basta. È stata fantastica, perché quando Lorenzo è così, sai, questa è una MotoGP ormai a dei livelli tali, che se tu non sei perfetto non vinci. Lorenzo Alemà è arrivato sesto, sembrava uno qualunque, no? Ieri era un fenomeno. Pedrosa ieri ha avuto delle difficoltà, poi ha detto mi è andata bene che sono arrivato secondo. Siamo a dei livelli di perfezione tecnologica, di preparazione, quindi anche di capacità mentale. Questi ragazzi sono delle macchine, sono fantastici da un certo punto di vista, inquietanti dall'altra, che se non sei perfetto non ci sei. Questo può essere anche una spiegazione, perché c'è l'età, c'è l'esperienza, c'è l'appagamento di Valentino e tutto questo. Ci sono delle ragioni tecniche che lui spiega spesso, le gomme, il monogomma impone un nuovo stile di guida, dice io non l'ho ancora assimilato, ci sono i 2 anni di ruggine ducatista, c'è, cosa dobbiamo dire, un luogo comune, la legge inesorabile dell'età, sì. C'è un livello anche più alto, perché sai che il dibattito infuria molto, no? Già dice era facile con Gibernau e Biaggi, io sono dell'idea che le ere non vadano mai confrontate, Pelé, Maradona, ma assolutamente sono segmentali, dai, queste qui sono, esatto, poi a noi il bar piace, per l'amore di Dio, però poi finisce lì, cioè poi devi andare oltre e dire in questa epoca è così, la sua epoca era cos'ha. Detto questo, è chiaro che sti ragazzi sono dei fenomeni, insomma, metti tutto questo insieme, fa che manca poco. Mi diceva una cosa dovizioso in questi giorni, dice io non credo che Valentino abbia disimparato, anzi io lo vedo guidare come prima, è che insomma intorno il mondo sta un po' cambiando, e ti ripeto, magari lui è ancora un fenomeno, ma se non sei perfetto non reggi il passo. Sì, vediamo, certo che... vediamo adesso Barcellona. È un'altra sua pista storicamente amata, dove lui ha sempre fatto bene, dove ha messo d'accordo, no, italiani e spagnoli, perché poi davanti al mito, no, anche il tifo lì è scomparso tante volte. Però io la vedo molto difficile. Del resto lui non ha detto che quest'anno voleva puntare al titolo, no? No, però a qualcosa di più davanti, di sicuro. No, siamo davanti a un flop pesante. Del resto lo sport, diciamo, è bello anche perché i numeri poi parlano chiaro e non li puoi aggirare. Lui ha se non sbaglio 56 punti da Pedrosa, e ne ha pure 3 meno di Dovizioso, che è il suo erede in Ducati. Ora io non voglio alimentare ora le discussioni, allora vedi eccetera, però insomma è un dato inquietante, no? Cioè, il numero parla chiaro e questo fa riflettere. No, però io dico aspettiamo. Sì, però io posso confessarti una cosa da amico. Io odio i tramonti, non sono uno particolarmente romantico, ma i tramonti vabbè, sì. A me fanno girare i tramonti, io non li sopporto, neanche nello sport, quindi sì, faccio, sì, sto soffrendo come un cane, perché questo mi dispiace dirlo ma è un tramonto. Vederlo salire sul podio senza essere sul podio, come è successo ieri, è un momento effettivamente malinconico. Chi vuole i tramonti vada a Los Angeles, non è roba per me. Però speriamo di no. Ecco, l'unica cosa che possiamo dire, magari è solo una nuvola o qualcosa che sta passando e poi il sole ricompare, è dura. Teniamoci la speranza. Grazie Ale. Grazie a te. Ciao, grazie ad Alessandro Pasini. E voi come la pensate? 800 24 00 24, traffico, poi torniamo insieme. Tutti convocati. Uno ha le sue teorie. Flop Rossi, facci godere, scrive un ascoltatore, oppure si faccia una ragione, Rossi è vecchio, per cui non si tratta di Ducati o altro mezzo, poi piuttosto gli dica di pagare le tasse. Insistiamo su questo discorso, no, io guardo Valentino in pista, poi al resto ci penserà Guardia di Finanza. Valentino non si è mai ripreso dall'incidente con Simoncelli, nessuno cita, è finito tra le sue gomme, questo è vero, questa è cronaca, ma non posso pensare che sia soltanto un blocco mentale, psicologico, perché altrimenti avrebbe lasciato tutto. Se così fosse, almeno io credo. Gianluca, provincia di Milano, buongiorno. 800 24 00 24, vi aspetto per parlare di ogni cosa, anche di basket, con cui chiuderemo tra poco, perché i playoff sono incandescenti e bellissimi, devo dire, playoff italiani. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi risposto alla trasmissione. No, io infatti volevo parlare proprio di questo, sono un appassionato e anche allenatore nel mio piccolo, sì. E in merito proprio alla decisione di gara 4 su Siena Varese, ecco, premetto che io sono un tifoso del tutto neutrale, sono un grande tifoso della vecchia casetta di Gentile e Sport, per questo non ho nulla a che vedere sia con Varese. È un osservatore di un gran bello spettacolo, sì. Sì, esatto, secondo me è stata la partita più bella dei playoff, rovinata dall'ultimo fischio, perché a mio modesto parere il contatto sull'ultimo tiro di Hackett è quasi impercettibile. Quel fischio non è piaciuto nemmeno a me. Perché mettiamoci nei panni anche degli arbitri. Gli arbitri sono anche competenti, sanno quando un tiro è fatto, con i dovuti crismi, nel senso, era un tiro tutto scoordinato, non aveva angolazione, il tiro Hackett non aveva angolo di tiro, per un movimento impercettibile. Hackett è stato bravo a fare un movimento un po' alla slava, cioè ha cercato il contatto con il difensore, umano, andando lui nel cilindro dell'avversario, che è diverso. È ovvio che non mi ricordo di chi era l'avversario in merito che lo stava contrastando, mi sembra Mike Green, Green, c'è stato questo movimento impercettibile, ha abbassato leggermente il braccio, ma ha tirato una mannaiata, ma certo, poi a un secondo e spiccioli dalla fine, insomma, fischiare un contatto di quel tipo sulla parità è stato un fischio quantomeno coraggioso. Anch'io adesso lasciamo stare la mobile nel basket, non vogliamo mica introdurla anche lì, però vedendo il replay non ho capito l'intensità di quel contatto, per quel niente che può contare. Comunque non dimentichiamo a monte il fatto che Varese aveva un tesoro da gestire e non è riuscita a difendere il tesoro di un monte di punti, 17 di vantaggio su Siena, che sembrava sul punto di arrendersi dopo 40 gare consecutive vinte in casa nei playoff, che sono qualcosa di impressionante, di incredibile. Mauro, Teramo, buongiorno. Buongiorno, Ancona, non Teramo. Ancona, ma scritto Teramo, Ancona. Mi perdoni. No, niente, io ho sentito del Valentino che è bollito, no? Non dobbiamo dimenticare che prima dei 2 anni alla Ducati lui aveva avuto l'incidente con la Yamaha. Sì, che sì, per amore, per forza, ha dovuto star fermo. Mm-hmm. No, bisogna ma ci vedere sono... se lui si è ripreso realmente da quell'incidente lì, psicologicamente. Ma psicologicamente io credo di sì. È stato un incidente grave che qualche traccia fisica può averla lasciata. Ora siamo qui tutti a cercare le ragioni di questo tramonto, perché di ciò si tratta, e ogni ragione, ogni spiegazione quella può essere valida, anche se probabilmente ha ragione Alessandro Pasini quando dice che questa è una generazione di piloti molto forte, che l'età può farsi sentire, che la ruggine dei 2 anni di Ducati può farsi sentire. Sono tutti fattori da tenere in considerazione. D'altra parte, insomma, non dimentichiamo neanche quali sono state le ultime stagioni tristi di un campione indiscutibile come Michael Schumacher. Quindi bisogna qualche volta arrendersi alla fine delle leggende. Bisogna così. Io mi giro dall'altra parte normalmente di fronte ai tramonti. Voi fate quello che volete. 800240024 Doriano, Venezia, buongiorno. Pronto, ciao, grazie per avermi convocato. Grazie a te di aver risposto. Una cosa velocissima, non capisco perché Marotta voglia continuare a insistere su Jovetic quando secondo me è un giocatore che non serve assolutamente niente. Potrebbe risparmiare andando a comprare Mario Gomez, per esempio. A prendere? Scusa, non ho sentito. Mario Gomez del Bayern. Mario Gomez del Bayern, che il Bayern potrebbe mettere sul mercato. Bisogna vedere quanto guadagna Mario Gomez al Bayern, io non lo so. Continuano a parlare di Higuain, ma a me sa abbastanza di bufala, perché Higuain prende, se non ricordo male, una decina di milioni o giù di lì dal Real Madrid. Quindi secondo me per così capire e leggere le piste reali bisogna anche andare a considerare l'ingaggio attuale dei giocatori. Quindi Jovetic senz'altro dal punto di vista economico può essere una pista reale. Io non sono nemmeno così convinto che Jovetic nel sistema della Juventus non sia adatto, perché comunque è un giocatore offensivo molto moderno. Quest'anno ha avuto una stagione molto altalenante, è stato a lungo infortunato, ma è anche uno che vede la porta, è anche uno che fa gol, è un giocatore molto eclettico, e insomma non lo vedo così male io nel quadro della Juventus. Poi magari come sempre sbaglierò io, direte voi. Doriano, Venezia? Che ha parlato ora di questa diazon tra la Juventus e Jovetic. Allora, visto che stavamo parlando di basket, per chiudere l'argomento, ieri, come sapete, o se non sapete ve lo dico io, Cantù ha sbancato Roma, e dunque ha ora il fattore campo a disposizione. 77-66, Cantù che ha insomma comandato la partita fin dall'inizio, e Calvani, dopo questo 3-2 per i canturini, che vale il match ball per la squadra di Bruno Arrigoni e di Trinchieri, ha detto questo. Questa è stata veramente la prima partita dove Cantù l'ha fatta veramente dall'inizio fino alla fine, e quindi c'è da dare grande merito agli avversari per la solidità che hanno, per la profondità, per quello che sono riusciti ad esprimere per tutta la partita, e quindi grandi complimenti a Cantù. Siena non muore mai, e l'avrete capito per l'ennesima volta anche sabato sera, dopo una partita meravigliosa. Siena questa sera al match ball per la finale, va a Varese sul 3-1, e Hackett ha deciso l'ultimo quarto di partita. Sentiamolo. Abbiamo ribaltato il risultato e portato a casa quella che forse è la partita più importante della stagione. Eravamo in controllo nel terzo periodo, Matt aveva iniziato bene, eravamo a meno 5, meno 8, poi tutto d'un tratto Ere ha fatto 2-3 fiammate, Green e Dunston hanno fatto 3 giocate incredibili, e ci siamo ritrovati a meno 19, una cosa del genere. Essere qua a parlare sul 3-1 mi dà tanta umiltà e voglia di continuare e portare a termine il nostro obiettivo. E questa sera 20:45 la partita potrebbe essere la settima finale di seguito per Siena. Intanto, per la cronaca, poi riprendiamo il discorso domani, Mario Gomez 8-9 milioni all'anno, non credo che possa essere per questo motivo un obiettivo realistico per la Juventus. Grazie a Franco Piantelini, autore di questo programma, e a Filippo Aureggi in regia. Tutti convocati qui domani alle 2. Ciao.